Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi scherza dopo la sconfitta. Troppi impegni per il mio funerale. Alemanno, congresso e nuovo nome per il PDL. Stasera vertice del partito. L'opposizione incalza, il governo si presenti dimissionario in Parlamento. Fissata a fine giugno la verifica chiesta da Napolitano dopo il rimpasto. Pisapia, prima giornata da sindaco di Milano, incontra i dipendenti comunali, metà donne nella sua squadra. Per Montezemolo con le amministrative è tornata la coscienza civile. Draghi, ultima assemblea da governatore di Banca Italia, il declino non è ineluttabile, dice, ma serve una manovra tempestiva. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, benvenuti dunque a questa edizione di GR24 che iniziamo con la politica, naturalmente le ripercussioni del ballottaggio per le amministrative di domenica e lunedì. Le prime parole del Presidente del Consiglio Berlusconi da Bucarest, il Premier ha cercato di sdrammatizzare, di minimizzare l'impatto politico, ha scherzato anche sulla data del suo funerale. Stasera riunione del partito, del PDL, facciamo il punto allora con Alessandra Schetti. Sì, Berlusconi ammette la sconfitta ma non molla né perde l'ottimismo. Da Bucarest, dove è impegnato nel vertice bilaterale Italia-Romania, rilancia infatti l'azione di governo e sfoggia sorrisi e ironia. Sentiamolo. Fissare la data del mio funerale, ma nei prossimi giorni ho troppi impegni, quindi rimanderemo. Arrivederci. No, non ci dica un attimo di E vediamo, abbiamo il comitato di presidenza presto. Il Premier rientrerà a Roma nelle prossime ore per presiedere l'ufficio di presidenza del PDL che si terrà alle 20 a Palazzo Grazioli. Tra le ipotesi rilanciate dallo stesso Berlusconi la nomina di Angelino Alfano a coordinatore unico del partito, un vertice dal quale si attendono comunque indicazioni per un cambio di passo che tenga conto di quanto avvenuto con il voto amministrativo. Sono infatti molti a chiedere correttivi, occorre partire da un vero congresso del PDL che riaggreghi tutte le forze che si sono separate in questi anni, dice il sindaco di Roma Alemanno, che propone di cambiare nome al partito. Anche per il capogruppo del PDL alla Camera Cicchitto deve aprirsi un dibattito serio senza scorciatoie di alcun tipo. Quanto alla Lega, incassa la sconfitta ma rinnova almeno per ora l'alleanza con Berlusconi. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E invece l'opposizione inevitabilmente incalza il governo e la maggioranza, e però dai banchi appunto del Partito Democratico all'opposizione arriva anche una richiesta precisa. Andrea Viali. Sì Alessio, ad una sola voce possiamo dire da ieri l'opposizione chiede al governo di dimettersi, prendendo atto che non ha più una maggioranza nel paese, richiesta ribadita in aula alla Camera stamattina anche dal democratico Franceschini, il quale ha invitato Berlusconi a presentarsi dimissionario alla verifica di governo. Lo ricordiamo che era stata sollecitata dal Presidente della Repubblica Napolitano dopo l'ingresso dei responsabili nell'esecutivo, verifica che si terrà fra il 20 e il 27 giugno, quindi l'ultima settimana di giugno. È stato deciso poco fa dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, ma sentiamo Franceschini. Quella verifica in aula a questo punto diventa urgentissima. Chiediamo che a quella verifica il governo Berlusconi si presenti dimissionario. Il paese vuole essere governato, il paese vuole voltare pagina, Berlusconi si dimetta e l'Italia potrà tornare a sperare nel futuro. Berlusconi faccia un passo indietro, incalza anche Donati dell'Italia dei Valori, che invita Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà a costruire insieme un'alternativa di governo. Sentiamolo. Dal nord al sud, da Milano a Napoli, da Trieste a Cagliari, la maggioranza esce travolta e con lei un governo incapace di dare risposte ai problemi del paese. Oggi è il tempo di costruire una salda alleanza di centrosinistra che può essere davvero una seria e importante alternativa per il futuro di questo paese. Grazie dunque anche ad Andrea Viali per questo collegamento. Così dunque questa è la pagina delle reazioni politiche a livello nazionale dopo il voto di ballottaggio per le amministrative che ha definito i volti dei nuovi primi cittadini, dei nuovi sindaci di molte città. E allora vediamo qual è la prima giornata, per esempio, del nuovo sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Tutta mia la città Si è conclusa sulle note di Tutta mia la città, la canzone con cui Giuliano Palma aveva chiuso il concerto di fine campagna elettorale, l'affollatissima festa di ieri sera in Piazza Duomo, la presenza di circa 100.000 cittadini per celebrare la vittoria di Giuliano Pisapia alle amministrative di Milano. Pisapia è da oggi il 57° sindaco del capoluogo lombardo. E dopo i festeggiamenti, questa mattina sui tabelloni elettorali sono comparsi i manifesti di ringraziamento del nuovo primo cittadino. Una scritta bianca su uno sfondo tutto arancione per un messaggio chiaro e semplice: Milano, buongiorno. Ce l'abbiamo fatta, il vento è cambiato e il vento che è cambiato a Milano sta spirando in tutta Italia. Ci rivedremo in giro per Milano per cambiare insieme a Milano. Grazie, grazie di cuore. Così ha detto ieri sera Giuliano Pisapia. Cambieremo il destino di Milano e il suo sarà un grande futuro. Un futuro che Pisapia condividerà anche con la sua squadra. La nuova giunta milanese sarà resa nota entro 15 giorni, ha promesso, e ha ribadito che il suo vice sarà una donna, così come il 50% della squadra. Nella sua prima giornata da sindaco, un incontro con i dipendenti comunali, la visita in un palazzo popolare della zona di San Siro e poi il saluto alla vedova del comandante partigiano Giovanni Pesce. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso un aggiornamento per quanto riguarda proprio la pagina politica nazionale con la quale abbiamo aperto il giornale radio, perché abbiamo parlato di una riunione di vertice del PDL questa sera a Roma, atteso anche Silvio Berlusconi. Invece è notizia di pochi istanti fa che il vertice, a questo punto chiarificatore all'interno del partito di maggioranza, è stato slittato a domani, quindi la riunione del PDL ci sarà domani pomeriggio. Abbiamo sentito qual è la situazione a Milano, adesso ci spostiamo a Napoli. Breve telefonata tra il segretario del PD Bersani e il nuovo primo cittadino De Magistris, che ha detto: voglio collaborare con il Partito Democratico. Paolo Picone, buongiorno. Sì, buongiorno. Poche ore di sonno dopo la festa di Piazza Municipio per il neosindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha iniziato la sua giornata di buon mattino nello storico caffè Gambrinus. Cappuccino, incontro con il suo staff, lettura dei quotidiani, ma soprattutto strette di mano con i cittadini. In tanti gli hanno detto grazie e altrettanti hanno utilizzato il termine che De Magistris ha fatto suo durante la campagna elettorale: Luigi hai scassato. Il neosindaco quindi ha avuto un breve incontro con il prefetto di Napoli Andrea Di Martino, che gli ha assicurato piena vicinanza, poi un riferimento d'obbligo alla sicurezza e all'emergenza rifiuti. Infine il prefetto ha invitato De Magistris a prendere parte alle celebrazioni del prossimo 2 giugno, anche se a insediamento ancora non avvenuto. Da Napoli è tutto, linea allo studio. Grazie anche a Paolo Picone da Napoli. Milano dunque, Napoli dunque, ma anche se con un effetto molto minore, altre città, per esempio Trieste riconquistata dal centro-sinistra, per esempio Cagliari riconquistata, in questo caso sì, dal centro-sinistra, con il 35enne di Sinistra Ecologia e Libertà Massimo Zedda, definito un candidato anomalo, è però riuscito a sbancare la posta. Sentiamolo al microfono di Romolo Napolitano. È stato possibile grazie al sostegno di tanti cagliaritani, tanti cittadini che si sono avvicinati, in particolar modo giovani che hanno volantinato, dato una mano d'aiuto in questi mesi di campagna elettorale. Lei si sente parte di quel cambiamento che ha un po' travolto anche Milano e Napoli? Cagliari fa parte sicuramente di questo cambiamento, è un messaggio sicuramente forte al governo nazionale, si afferma il centro-sinistra in tutta Italia, quindi è un segnale chiaro, sì. Beh, è molto giovane, così come il sindaco di Firenze. C'è una generazione che ha iniziato a far politica da giovanissimi, che intende dimostrare quel che vale. Mi dicono i tassisti di Firenze, le persone che conosco Firenze, che il Renzi sia giovane ma un bravissimo amministratore, quindi è la dimostrazione, insomma, che non c'entri poco l'età, ma soprattutto come si governa, come si amministra e quanto si riesce a risolvere i problemi della propria città. Così dunque il nuovo sindaco di Cagliari, allora Massimo Zedda, al microfono del nostro Romolo Napolitano. Salutiamo e ritroviamo Stefano Fogli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Hai scritto, e l'avevi scritto anche al primo turno, l'hai scritto anche oggi, dopo il secondo turno, che questo voto per le amministrative rappresenta una rivoluzione, la fine di un'era, quella del sodalizio, dell'alleanza dei due assi pigliatutto, PDL e Lega, che nelle scorse elezioni avevano stravinto e governato e amministrato a livello nazionale e locale. Secondo te, perché, Stefano, c'è stata questa battuta d'arresto, questa sconfitta? Perché gli elettori hanno punito il PDL e la Lega? C'è una ragione, diciamo, fisiologica in politica, che è il fatto che sono passati tantissimi anni, e le cose si consumano, si logorano. 17 anni che Berlusconi è sulla scena politica, molti anni che si è consolidato questo asse con la Lega, e poi c'è una ragione, diciamo, di ordine pratico, legato alle difficoltà del paese, alla crisi che investe l'economia di questa nazione, e che il centrodestra non ha dato l'impressione di saper governare con efficacia. Guardiamo invece a prima di parlare di quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, anche se l'esercizio della previsione è sempre difficile, se non impossibile, guardiamo per un momento invece a quello che accade nell'opposizione a livello nazionale. In queste città, Pisapia, De Magistris, ma anche, l'abbiamo appena sentito, il cagliaritano Zedda, si è parlato di candidati, adesso di sindaci anomali in qualche modo, ma perché non espressione del partito di maggioranza dell'opposizione, cioè il Partito Democratico. Ma è giusta secondo te questa espressione, Stefano, oppure si tratta semplicemente di esponenti politici che incontrano gli umori degli elettori? In altre parole, anche nel centrosinistra ci sarà qualche cambiamento dopo questa elezione, Stefano? Ma sì, penso di sì. È chiaro che c'è un paese molto effervescente che ha mandato un segnale chiaro, è un segnale disordinato naturalmente, perché l'opposizione non ha mai saputo in questi anni, neanche adesso, incanalarlo in un progetto politico, e questo è il problema che rimane aperto sul tavolo. Pensare che ieri gli italiani abbiano dato un preavviso di sfratto a Berlusconi e che se si votasse per le elezioni politiche il risultato sarebbe trionfale per il centrosinistra è un grave errore. Non c'è un progetto, ci sono alcuni successi importanti che nascono da una combinazione di fattori e che hanno premiato spesso dei personaggi appunto un po' fuori, diciamo, dal contesto politico noto, e la loro fortuna naturalmente, la loro forza, però adesso tutto va costruito una proposta al paese da parte dell'opposizione, e fino adesso non c'è questa proposta. Stefano, abbiamo appena detto che l'ufficio di presidenza del PDL, insomma la riunione politica più attesa che doveva essere tenuta oggi, probabilmente slitta a domani, un segno che, insomma, i chiarimenti si rimandano, un segno di difficoltà nella maggioranza, o tu, insomma, come la vedi adesso? No, io vedo che la reazione del primo momento è stata molto difensiva, no? Bossi, Calderoli, Marone hanno detto che non cambia sostanzialmente niente, che bisogna governare meglio. Ecco, questa è una reazione tipica della prima ora. Nessuno vuole buttare a mare l'alleanza tra PDL e Lega, perché insomma è l'unica cosa su cui si regge il governo. Però detto questo, è evidente che c'è un sommovimento in atto, è evidente che la Lega dovrà interrogarsi sulle cause della sua sconfitta, perché è stata molto grave, ha perso nei suoi territori, e quindi c'è qualche cosa che deve essere, ma più che registrato, qualcosa che deve essere innovato profondamente. C'è un problema, forse anche se è un po' tabù dirlo, insomma, Bossi è un signore che è da tantissimi anni alla guida della Lega, il partito che lui ha fondato, però è anche una persona che probabilmente non è più così lucida come un tempo, Berlusconi all'età che ha, insomma c'è un problema anche probabilmente di ricambio di personale, per questo che io ho detto che sarebbe saggio da parte del centrodestra avviare una successione ai vertici politici, successione che deve riguardare secondo me in prima persona Berlusconi, lui forse è ancora in grado di gestirla la sua successione, se però tutto questo si riduce ad auspicare riforme più incisive, ben sapendo che ci sono pochissime risorse per farle queste riforme, temo che il centrodestra vada incontro ad altre delusioni. Benissimo, grazie allora Stefano Folli, che ci parlava del fatto che adesso l'attenzione si concentra proprio anche sulla leadership nel PDL e nella Lega. Sentiamo allora che cosa consiglia a Silvio Berlusconi Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, ex ministro consigliere, vicino insomma al presidente del Consiglio. Sentiamolo, Ferrara è intervenuto questa mattina allo speciale con Oscar Giannino. convocare per sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre elezioni primarie generali nel PDL aperte a tutti gli elettori, con un regolamento semplice e ferreo, nominando un commissario straordinario che le gestisca, per eleggere il capo del PDL, sollecitando una competizione con candidati a lui alternativi, e per eleggere tutti i coordinatori regionali, quindi diciamo mettendo in un assetto di rivoluzione democratica e di coesione politica vera un partito e un movimento che oggi sono frammentati in correnti e gruppi, diciamo che mi sembra fondamentalmente siano governati dall'idea del vantaggio personale, della carriera dei loro leader, eccetera, e non da e spesso almeno sono privi diciamo di quell'anima politica che invece è essenziale per recuperare nel rapporto con gli elettori di Berlusconi e con il paese. 13:19 minuti, GR24, ben ritrovati alla seconda parte. Nella prima abbiamo parlato soprattutto dei risultati e delle conseguenze dei ballottaggi per le amministrative. Berlusconi da Bucarest ha scherzato dopo la sconfitta. Troppi impegni per andare al mio funerale, ha detto. Intanto però comincia il pressing nel PDL. Il sindaco di Roma Alemanno chiede un congresso e un nuovo nome per il partito. Il vertice del PDL previsto inizialmente per stasera è slittato a domani. L'opposizione invece chiede che il governo si presenti dimissionario in Parlamento, fissata intanto a fine giugno la verifica che era stata chiesta da Napolitano dopo il rimpasto e la nomina degli esponenti di governo dei responsabili. Prima giornata da sindaco per Giuliano Pisapia a Milano e per Luigi De Magistris a Napoli, ma anche per tutti gli altri. Abbiamo sentito alcune voci. A Milano si parla di un metà squadra di donne per Pisapia. E poi il commento di Luca Cordero di Montezemolo: con le amministrative è tornata la coscienza civile. Adesso tutte le altre notizie, come anticipato, cominciando dalle parole del governatore di Banca Italia, Mario Draghi. Eh sì, perché Draghi oggi ha tenuto le sue ultime considerazioni finali da governatore di Banca Italia, perché il 24 giugno sarà nominato presidente della Banca Centrale Europea. Draghi ha ripreso i suoi temi, i temi cari al governatore della Banca d'Italia: la crescita, tornare a crescere. Ha detto che il declino non è ineluttabile, ma serve una manovra tempestiva. Allora facciamo il punto con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Tornare alla crescita per dare un futuro al Paese e alle nuove generazioni. Questo è il messaggio principale di Mario Draghi in quella che di fatto è stata la sua ultima assemblea pubblica da governatore della Banca d'Italia. Draghi, lo ricordiamo, assumerà a breve la guida della Banca Centrale Europea. Sostenibilità dei conti pubblici, dunque, coniugata al rilancio delle riforme come strada per uscire dalla crisi che ci blocca, ricorda Draghi, che parla di Paese insabbiato. È necessario però, avverte il numero uno di Via Nazionale, credere nella ripresa. Sentiamo le sue parole. Occorre sconfiggere gli intrecci di interessi corporativi che in più modi opprimono il Paese, e questa è una condizione essenziale per unire solidarietà e merito, equità e concorrenza, per assicurare una prospettiva di crescita al Paese. Già nel mio primo intervento pubblico da governatore, nel marzo 2006, notavo come l'economia italiana apparisse insabbiata, ma che i suoi ritardi strutturali non andavano intesi quali segni di un declino ineluttabile, potevano essere affrontati dandone conto con chiarezza alla collettività, anche quando le soluzioni fossero avverse agli interessi immediati di segmenti della società. Poche settimane dopo mi rivolsi a voi in questa sede con le parole di apertura: tornare alla crescita. E con le stesse parole vorrei chiudere queste considerazioni finali. Rigore nei conti e crescita, dice Draghi. Per il primo punto il governatore definisce appropriata l'intenzione di anticipare a giugno la manovra correttiva e l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014. Sì alla riduzione della spesa pubblica, no però ai tagli lineari. Quanto alle riforme, la priorità è il mercato del lavoro, spiega Draghi. È necessario un riequilibrio e maggiore flessibilità, più tutela per il lavoro femminile. Ed ancora, il numero uno di Banca Italia chiede di ridurre il peso del fisco, compensando il minor gettito con il recupero dell'evasione. E di fronte alla crisi dei debiti sovrani, il governatore insiste perché le politiche nazionali diano attuazione ai piani correttivi. Bene le nostre banche, conclude Draghi, ma attenzione al rispetto delle regole. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. A margine della considerazione finale di Mario Draghi è intervenuto anche Luca Cordero di Montezemolo, che ha commentato la situazione politica. Ha detto Montezemolo: con il voto alle amministrative c'è stato un ritorno della coscienza civile del paese che secondo Montezemolo ha bisogno di stimoli, di slancio, di grande armonia e di ritrovare consenso per fare le cose che negli ultimi 15 anni non sono state fatte. Togliamo i tappi, ha detto Montezemolo, e guardiamo avanti. E a proposito dei commenti ai risultati delle elezioni, c'è da registrare anche quello del presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, che ha detto: tra le componenti che hanno fatto vincere Pisa Pia c'è stata la capacità di interpretare una speranza, una sua speranza e una sua visione in cui si sono riconosciuti in tanti. Da parte nostra questo è mancato, ha detto Formigoni, che ha aggiunto: andando in giro per le piazze, per i comizi, sentendo testimonianze di amici, è indubbio che nella scelta di molti cattolici e non cattolici ha pesato una valutazione negativa su certi comportamenti privati, e Formigoni non ha specificato il riferimento, che era sicuramente ai comportamenti del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Adesso due notizie di economia. Il tasso di inflazione annuo a maggio è rimasto stabile al 2,6%, lo stesso livello già registrato ad aprile, che si conferma così il più alto dal novembre del 2008. L'ha rilevato l'Istat nelle sue stime provvisorie, che indicano appunto un aumento dei prezzi al consumo su base mensile di solo lo 0,1%. A crescere invece molto sono stati i beni alimentari, che sono saliti a maggio dello 0,7%. Buone notizie invece sul fronte dell'occupazione: il tasso di disoccupazione ad aprile è calato all'8,1% dall'8,3% che aveva invece registrato nel mese di marzo. E ora parliamo di immigrati. Maxi sbarco nel Ragusano, provenienti dalla Libia sono arrivati oltre 900 immigrati, tra loro molte donne e bambini. Stipati su un vecchio peschereccio in ferro lungo 25 metri, partito dalle coste libiche, grazie alle buone condizioni del mare hanno raggiunto in tre giorni la Sicilia. Sono 912 profughi originari di paesi dell'Africa subsahariana sbarcati nella notte nel Ragusano. Tra loro 129 donne e una trentina di bambini. Sono stati soccorsi a sud di Capopassero, l'estremo lembo meridionale della Sicilia, da alcune motovedette della Guardia di Finanza. Il racconto del maggiore Corrado Spatola, del gruppo navale di Trapani. Abbiamo intercettato questo barcone che era monitorato da una nave militare maltese. Abbiamo assunto il controllo del natante mettendo tre militari dei nostri a bordo al comando di questa imbarcazione. Molte donne, molti bambini e neonati, diciamo in discrete condizioni di salute. Sono stati tutti accompagnati nel centro di accoglienza temporanea di Pozzallo per poi essere smistati in altre strutture. Intanto sono arrivati a Taranto i 1450 profughi salpati l'altro ieri da Lampedusa con la nave Flaminia. Rimarranno nel centro di accoglienza di Manduria fino a quando non saranno smistati nelle strutture messe a disposizione dalle varie regioni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora all'estero, il presunto assassino della giornalista russa Anna Politkovskaya, Rustam Makhmudov, è stato arrestato oggi in Cecenia, lo ha detto l'avvocato del fratello e suo presunto complice. Tre miliziani palestinesi sono stati uccisi oggi in un campo di addestramento militare a Rafah. Siamo nel sud della striscia di Gaza, da un'esplosione di natura non ancora accertata. Secondo le prime informazioni si tratta di miliziani dei comitati di resistenza popolare. E ora in Afghanistan il processo di transizione dei poteri nel paese va avanti. L'attentato di ieri contro il contingente ad Herat nell'ovest del paese non avrà alcuna conseguenza sul passaggio del controllo della sicurezza alle autorità afghane, un programma previsto da tempo. Sentiamo. Restano stabili le condizioni dei cinque militari feriti ad Herat nell'attacco di ieri nella città dell'ovest dell'Afghanistan. I medici sono moderatamente ottimisti, nessun militare dovrebbe essere in pericolo di vita. La dinamica dell'attentato è sempre quella del furgone imbottito di esplosivo lanciato contro il muro di cinta. Dietro altri insorti col fucile hanno sparato con armi leggere e pesanti. Nell'attentato sono rimasti uccisi quattro agenti afghani, numerose persone sono rimaste ferite. anche tra i civili. Sempre oggi a Kabul si è tenuta una conferenza stampa nella quale il presidente afghano Karzai ha chiesto alla NATO di sospendere i raid contro la popolazione civile. Se la NATO non sospenderà i raid aerei sulle case afghane, ha detto Karzai, la presenza in Afghanistan sarà considerata come quella di una forza occupante e contraria alla volontà del popolo afghano. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora entriamo in Italia con la cronaca. Ci sono gli sviluppi di un caso che ha fatto molto clamore a Napoli, perché sarebbero stati identificati i presunti responsabili della rapina a un turista statunitense che poi morì. Annalita D'Ambrosio. Sì, il sindaco nuovo, il nuovo sindaco di Napoli, De Magistris, che si insedia proprio oggi, troverà questa notizia positiva in termini di sicurezza, perché c'è stata nelle ultime ore questa svolta nelle indagini sull'assassinio del turista americano Oscar Mendoza, che era appena sbarcato da una nave da crociera quando, in un tentativo di scippo del suo Rolex, è caduto per terra, ha sbattuto la testa e dopo 9 giorni di coma è morto. In queste ore siedono davanti agli investigatori della squadra mobile di Napoli 2 uomini che sono fortemente sospettati di essere stati gli autori di quell'aggressione. I 2 sarebbero tra l'altro stati identificati, sono sempre indiscrezioni, dalla moglie di Mendoza. I 2, lo ripetiamo, sono sotto interrogatorio e dunque nelle prossime ore questa vicenda potrebbe avere un'evoluzione positiva. Proprio ieri i commercianti del centro storico di Napoli avevano abbassato le saracinesche dei loro negozi in segno di lutto per la drammatica morte del turista e per protestare contro le scarse misure di sicurezza che penalizzano un'intera città che sul turismo invece dovrebbe basare il proprio futuro. Per il momento è tutto. Grazie Annalita D'Ambrosio per questo aggiornamento da Napoli. Chiudiamo col calcio. O gioca di più o perderà l'azzurro. Il mittente di questo messaggio è il CT Azzurro, Cesare Prandelli, il destinatario, manco a farla apposta. Antonio Cassano, sentiamo. Cassano dovrà sgomitare nel Milan per trovare più spazio, punto. Che l'idillio fra Antonio Cassano e il Milan fosse sfumato da tempo è cosa ormai nota ai più. Ma che fosse il CT Prandelli in persona a mettere di fatto Fantantonio sul mercato è cosa sorprendente. Il ragionamento del traghettatore azzurro, del resto, non fa una piega. Da settembre chi non giocherà con continuità nel club non troverà spazio in nazionale, perché alla fine della prossima annata ci aspettano gli Europei 2012. Insomma, il tempo degli esperimenti è finito. Che Fantantonio allora si dia da fare o per trovare un posto stabile in rosso-nero o, più probabilmente, altrove. Dove? Magari in quella Firenze che in fondo da Coverciano dista una manciata di chilometri, oppure più giù, verso Palermo, dove il mare e il calore della gente sembrano proprio quelli della Genova sampdoriana. Comunque il messaggio di Prandelli, una volta di più, è chiaro. Niente sconti, neanche per il talento di Barivecchia, il suo pupillo più amato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13.30 termina qua questa edizione di GR24, Alessio Maurizio in studio, Fabio Cantadori in regia, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 24. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.